siano inconsapevoli. Gli occhi riflettono l'essenza di nuovi stimoli. Una realtà che intrappola ogni scelta all'ombra di una falsa idea. Unica libertà. E adesso che grazie.